Giovedì 30 giugno del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, il cinema di Visionari, il giovedì dalle 14 alle 15, anche quest'oggi con un certo anticipo. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, c'è la scaletta e tutte le informazioni della trasmissione di quest'oggi, e idem sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Cristina Zanetti, della 30ª edizione del Festival Mix Milano di cinema gay, lesbico e queer culture al Teatro Strehler, a partire da oggi fino al 3 luglio. Cristina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie infinite dell'invito di darci questa fantastica opportunità di raccontare un po' di noi. Allora faccio un passettino indietro, mi hai presentato giustamente perché io faccio sicuramente parte, sono una delle programmatrici del Mix assolutamente, però provengo da una storia un pochino più antica, e cioè diciamo che provengo da Immaginaria, che è stato il primo festival italiano a tematica esclusivamente lesbica e femminista. E questo nostro festival è nato a Bologna praticamente ha un sacco d'anni, no? Ne ha 27, ne ha quasi 30, e ultimamente però è successo questa cosa straordinaria, questo incontro straordinario tra noi, quindi tra Immaginaria e il Mix, abbiamo messo insieme le forze, e quindi è venuta fuori intanto una collaborazione bellissima, senza problemi, proprio nella più totale libertà di scelta di programmazione, e poi appunto ne è scaturita anche una programmazione ricchissima, perché diciamo loro, la parte maschile, diciamo i colleghi si sono occupati della parte maschile, quindi precipuamente gay, trans, queer, e noi invece portiamo al festival appunto la parte lesbica e femminista. Qui tra l'altro quest'anno grandissime proposte cinematografiche, ecco, siamo molto molto felici. Grandissimo festival. Senti, mi parlavi di una settantina di opere presentate in questa edizione. Sì, tra l'altro neanche adesso, magari non saranno esattamente 70, poco meno, e tra l'altro senza possibilità di replica, perché il tempo, quindi uno è perso, nel senso che purtroppo abbiamo 4 giorni allo Strehler, potete immaginare, un grande riconoscimento anche da parte del Comune di Milano, questa location davvero fantastica, c'è un pubblico stupendo, sono più 1000 persone al giorno, però il problema è che appunto non siamo in grado di replicare i film, quindi una volta passato non si vede più. Senti, immagino tutti i formati, dal cortometraggio al documentario al film di finzione. Sì, certo, ci sono sempre le solite categorie, quindi i corti, i mediometraggi e i lunghi, e a loro volta suddivisi, o viceversa, i narrativi, i documentari, stavo per gli sperimentali, ma in realtà la sperimentazione non la fa più nessuno, diciamo, nel nostro ambito. Quelli fanno già parte dei Future Film Festival, sono diciamo altri prodotti così tecnologici, sì. Senti Cristina, visto che è una 4 giorni e sono così tanti lavori, com'è la giornata tipo? Da che ora comincia il festival? Guarda, più o meno cominciamo oggi parliamo dell'inaugurazione, per esempio oggi partiamo alle ore 19 per dare tempo alla gente, no, di tornare dal lavoro, e quindi oggi ci sarà una presentazione, e partiamo con un gran botto perché in contemporanea ci sono dei pezzi da 90, e d'altra parte o uno sta in una sala, uno sta in quell'altra, sono dell'ubiquità, purtroppo non è di questo mondo, e quindi, però in generale ecco, sarà questa la tempistica. Qualche giorno poi, man mano che andiamo nel cuore del festival, si comincia anche alle 17. Però diciamo giovedì e venerdì si comincia alle 19 e si va avanti non stop su 2 sale in contemporanea. Una è enorme perché è la sala grande dello Strehler, che contiene tipo 964 posti a sedere, e poi c'è la Scatola Magica, che è diciamo una saletta più piccolina. E quindi poi niente, invece sabato si parte alle 15, alle 17 chiedo scusa, domenica idem, insomma è una discreta kermesse. Tra l'altro il mix non è solo questo, perché ci sarà musica sul sagrato, ci saranno presentazioni di libri, è una macchina davvero molto complessa e molto grande, sì, che tra l'altro ha la collaborazione, vede la collaborazione di moltissime istituzioni. Ecco, se volete andare, tutto quello che non riesco a dire io in questi pochi minuti lo potete andare a vedere sul sito, che è www.festivalmixmilano.com, e comunque è facile, entrate in internet, fate Festival Mix e vi compare subito. Sì, c'è anche la pagina, link, no? La pagina Facebook, ho visto. E poi c'è una pagina, sì, Facebook, che certo, sì, che viene aggiornata di giorno in giorno. Tenete d'occhio anche la pagina di Immaginaria, quindi, perché siamo due festival gemelli che fanno fondamentalmente la stessa cosa, e quindi abbiamo anche www.immaginaria.org e la pagina Facebook di Immaginaria. Ecco, vista questa tua provenienza da Immaginaria e questa tua particolarità lesbica e femminista, Cristina, volevo chiederti, anche se chiaramente un po' in sintesi, com'è cambiato, come sta cambiando l'immaginario lesbico e femminista nel corso di questi anni? Ma guarda, diciamo che sai, noi siamo donne di formazione femminista, quindi sì, diciamo diciamo i film, no? I prodotti che portiamo noi sono sempre come dire, risentono abbastanza di quella che è la nostra impostazione, no? Sì. E cioè un'impostazione storica sulla memoria, sul recupero, sull'identità lesbica, sull'identità femminista. C'è una prevalenza di produzione, ecco, e quindi questa produzione continua ad esserci molto bella, molto profonda e molto approfondita. Contemporaneamente si ha tutta una produzione queer, anche per quanto riguarda, voi mi insegnate, no, che il queer è un po' adesso un po' di dire un calderone, come posso dire, un mix, no? Sì. Di molte identità, no? E ultimamente va abbastanza di moda, quindi diciamo raccoglie quelle che possono essere tutte le identità a noi conosciute per il momento, quindi donne lesbiche, uomini gay, trans, intersex, i queer stessi, che insomma, in questo discorso che raccoglie un po' queste identità, diciamo, performative. C'è molta produzione in questo senso e sicuramente i colleghi del mix hanno portato questo contributo del queer dentro sì, al festival, parola che peraltro è contenuta nel sottotitolo del mix, ecco. Mm-hmm. Quindi LGBT Film Festival e queer culture, quindi sicuramente. Però ecco, devo, se posso precisare una cosa, poiché noi diciamo la nostra programmazione, quella che porta Immaginare dentro al mix, si basa su regia femminile, cioè noi portiamo non solamente dei contenuti, ma sì, tutti i film, sì, che portiamo, sì, noi sono a regia femminile. Ecco, diciamo che magari, ecco, è un pelino minoritario il queer nella regia femminile, un pelino minoritario. Okay. E quando lo è di stampo chiaramente anglosassone, insomma, provengono dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, sì. Cristina, io ti ringrazio, le indicazioni web ce le hai date, ci sentiamo, sì, per le prossime novità. Ricordiamo allora 30ª edizione del Festival Mix Milano di Cinema Gay Lesbico and Queer Culture al Teatro Streller da oggi 30 giugno fino al 3 luglio. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie infinite, tanti auguri. Ciao. Buona Cristina, giornata. Anche a te. Arrivederci. Ciao. Cristina Zanetti per quanto riguarda questa 30ª edizione del Festival Mix di Milano. Michele Morsello, coregista del documentario Strade di Musica. Michele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Senti, allora, si tratta di un lavoro dedicato alla musica di strada, ma raccontaci un po' dell'idea e di come è nato. Allora, in pratica questo documentario parla sia di musica, sia di strada, insomma, è anche un po' di Roma. Non so se insomma è capitato ai vostri ascoltatori di girare per Roma, magari trovarsi in una delle bellissime piazze che ci sono, Piazza Navona, il Pantheon, Piazza Flaminio. Molte volte insomma capita di incontrare questi personaggi che sono dei musicisti di strada che insomma suonano durante tutta la giornata. Ecco, a me è capitato spesso, insomma, molte volte mi viene anche la pelle d'oca, insomma, a parlarne, perché si crea un'atmosfera magica all'interno delle piazze, è come se si creasse insomma una colonna sonora della nostra vita. Questo è uno dei personaggi che dice questa frase, la ripropongo. Insomma, in questa atmosfera, in queste situazioni, mi sono chiesto molto spesso che cosa faranno questi musicisti di strada, oltre a suonare per le strade, insomma, qual è la loro vita, perché hanno deciso di intraprendere questa strada. L'unica risposta che insomma mi sono dato dopo il documentario è una sola, è l'amore per la musica. Mm-hmm. Tutti i personaggi che hanno fatto parte insomma di questo documentario hanno la passione per la musica, la passione sfrenata per la musica, e la vogliono donare agli altri. Mm-hmm. Come insomma un po' tutte le persone che amano la musica e la sanno fare. Quindi io, insieme a Giuliano Giacomelli, che è l'altro regista, dopo questa ispirazione insomma abbiamo deciso di scoprire qualcosa di più di questi personaggi. Quindi siamo riusciti insomma a uscire di casa con le nostre attrezzature ed andare appresso a questi personaggi. Li abbiamo cercati per strada, ovviamente, perché li avevamo cercati anche in altri modi, però insomma i musicisti di strada stanno per strada, e quindi siamo andati dietro loro, all'interno delle loro case, all'interno delle loro vite, e ci hanno raccontato insomma quello che fanno. Molte volte diciamo l'artista di strada, il musicista di strada viene relegato a insomma un barbone o a colui che cerca soltanto denaro, e invece abbiamo scoperto che c'è molto altro. La maggior parte di loro sono musicisti che hanno studiato tanti anni per arrivare ai livelli a cui sono arrivati, e non cercano sicuramente l'elemosina, ma cercano di donare, appunto, come ho detto, un po' di musica, di regalare un sorriso, e poi magari di avere qualche spiccio, sì. Quindi con questa idea siamo partiti per le strade di Roma. Senti, quanti sono, per chi ci ascolta, io l'ho visto il documentario, i vostri interlocutori, quanti sono stati i personaggi che avete raccontato? Allora, partiamo dall'inizio, nel senso che noi abbiamo intervistato tantissime persone. Sì. Siamo andati appunto nelle loro case. Poi magari alcuni ci hanno detto che no, non volevano fare il film, invece altri magari non erano adatti. Abbiamo cercato quindi di fare una selezione su tipo un talent show. Abbiamo fatto questa selezione io e Giuliano, e da una trentina che erano ne abbiamo selezionati 8. Le abbiamo selezionate appunto in base ai loro strumenti. La maggior parte sono strumenti tutti particolari, tipo lang, il didgeridoo, le percussioni, o insomma c'è un one man band che si chiama Kiko Tagabanda. Poi ci sono anche strumenti più semplici come il sax, la tastiera. E quindi quelli che ci sono piaciuti di più, che sono 8 in tutto, diciamo sono diventati i veri personaggi del documentario. Però non da dimenticare che insomma nello sfondo della Roma brulicante ci stanno molti altri artisti che abbiamo messo appunto da una scena all'altra, insomma, nello sfondo. Mm-hmm. Oltre agli artisti, insomma, pure i monumenti che stavano dietro. Senti, curiosamente una cosa insomma che mi ha appunto lasciato un po' così è che nella parte dedicata all'hip hop c'è una scelta della strada un po' più scimmiottata, nel senso non è poi alla fine una vera esistenza basata sulla strada o di provenienza della strada, ma è qualcosa di più imitato, anche per quando realizzano il video l'impressione è questa, insomma, rispetto ad altri personaggi che invece la strada la fanno quotidianamente, sembra più una cosa scimmiottata che può lasciare perplessi, insomma. Sì, me l'hanno chiesto in tanti perché questa scelta, in realtà la scelta è stata pure abbastanza pensata, nel senso che questi insomma i Pizza Connection, che sono una band che è rap e pop, nascono dalla strada alla fine. Abbiamo deciso di inserirli all'interno del documentario perché loro ci raccontavano un po' l'ascesa che dalla strada arriva fino al palco. Okay. Come ho detto, ognuno di questi personaggi racconta una storia, c'ha un inizio e una fine. Loro ci stavano raccontando appunto che suonava, fare dei pezzi rap, se insomma non hai vissuto la strada, non hai avuto le problematiche della strada, non puoi conoscerle, quindi non puoi esprimerle. Quindi un po' perché pure loro suonavano per strada, cioè li abbiamo seguiti in dei posti strani di Roma, più periferici, diciamo, cantavano insomma tra di loro con un piccolo radio. Okay. C'avevano questo studio discografico, piccolo studio insomma di incisione. Ci sembrava una bella storia da raccontare alla fine. Sì, appunto il documentario è Strade di Musica, quindi non andavamo solo appresso a quelli che stavano nelle piazze e basta, insomma tutti i percorsi musicali insomma ci aggradavano, e questi ci hanno particolarmente insomma sorpresi. Mm-hmm. E quindi abbiamo deciso di inserirli. Michele, che percorso di uscita in sala sta avendo Strade di Musica? Per adesso è già uscito il 24 in alcune città tipo Avellino, Novara, Piacenza. Ora qui non ho tutta la lista, però queste sono quelle sicure che mi hanno dato, e la prossima settimana sarà a Roma e Pioltello. Quindi dal 4 luglio dovrebbe essere su Roma. Ok. Come ho detto, non ho le sale precise, le date precise, però insomma sì, la prossima settimana sarà a Roma, insomma, cosa a cui siamo molto felici io e Giuliano, perché alla fine il documentario è partito anch'esso dalla strada. Quindi è partito dal basso, poi ci ha dato una mano Alberto De Venezia, che è il produttore che si sta occupando della distribuzione, che ho nominato alcuni, nomino anche il montatore Andrea De Emilio, Giuliano Giacomelli che è l'altro regista, e Lucio Zannella che ci ha aiutato con le riprese. Okay. Per Roma. Senti, a questo punto nel salutarci ci lasci tutti i riferimenti internet per avere informazioni più precise? Sì. Okay. Allora potete andare o sulla pagina dell'Ipnotica Produzione, oppure, siccome non abbiamo fatto una pagina Facebook sul film, potete andare direttamente sulla mia pagina Facebook, Michele Morsello, e lì troverete insomma tutti gli aggiornamenti sul film. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, Michele. Grazie mille a voi. A presto. Buona giornata. Pure a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Michele Morsello, co-regista del documentario Strade di Musica, in uscita in questo periodo in varie parti d'Italia. E ritroviamo Dario Albertini, questa volta come regista del documentario Incontri al Mercato, che sarà in programmazione all'Isola del Cinema qui a Roma il prossimo 3 luglio. Dario, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buon pomeriggio a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie mille. Un po' caldo nella capitale, insomma, però siamo bene. Siamo bene. Senti Dario, allora raccontaci un po' di questo nuovo progetto. Sì, Incontri al Mercato. Incontri al Mercato è un film che in realtà diciamo parte tutto da una ricerca fotografica che io ho iniziato nel 2006 circa, 2006-2007, perché diciamo nasco dalla fotografia. e poi l'ho portato avanti negli anni. Il progetto si è evoluto fino a che appunto poi è diventato questo film, Incontri al mercato. Il film racconta la storia, più che la storia seguiamo le giornate di tre personaggi, queste tre persone molto diverse tra di loro, ma con una cosa in comune: il fatto che tutti i giorni si recano al mercato, ognuno per un motivo diverso, e quindi viviamo con loro appunto queste giornate. Abbiamo Mimmo Marano, Erasmo Sabatini in arte Mimmo Marano, che è stato in passato un pianista che ha lavorato anche in Rai, insomma un pianista di piano bar. Abbiamo Maria Luisa D'Atria, che è stata oggi ha 82 anni, ma è stata ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, poetessa e quant'altro. E poi c'è un facchino che da più di 20 anni lavora al mercato ortofrutticolo, e che in passato ha avuto un passato da frequentatore assiduo di rave party anni 90, dove ahimè lì ha perso l'uso, diciamo, perso la parola purtroppo per l'abuso di droghe sintetiche. Diciamo, questo è un quadro generale di quello che è il film. Senti, è ripartito con l'idea del filmare il mercato di questi tre personaggi, oppure li hai trovati strada facendo? Come si è sviluppato il progetto? Guarda, in realtà l'idea appunto nel 2006 era quella proprio di fotografare le persone al mercato. Io ritengo, poi dopo questa esperienza, dopo questi anni, che il mercato sia un luogo dove ci porta proprio ad avere un'apertura particolare, proprio mentale, cioè uno scambio tra persone, c'è chi cerca, c'è chi cerca di vendere, ma in realtà poi ho visto che c'è proprio un contatto umano molto molto molto presente. E no, le persone, questi tre personaggi li ho conosciuti appunto in un mercato, ne ho girati tantissimi, fino a che poi mi sono fermato un mercato di provincia qualunque, okay. E ho conosciuto questi tre personaggi meravigliosi che mi hanno dato proprio la possibilità di entrare appunto proprio nel quotidiano delle proprie vite, e quindi sì, li ho conosciuti lì. Qual è l'aspetto che umanamente ti ha portato di più rispetto a questa esperienza? Ma guarda, questo è un film, in un certo senso è un film un po' che chiude una sorta di trilogia, okay. Con gli altri due. È un film sulla solitudine, è un film sull'abbandono, e anche nei precedenti, sia nel caso di Slot, dove avevamo un personaggio che aveva a che fare con il gioco d'azzardo compulsivo, quindi con problemi di ludopatia, e c'era proprio la solitudine di questa persona che lottava contro questo mostro invisibile. Poi sono passato attraverso una struttura, la Repubblica dei Ragazzi, dove c'erano ragazzi dove avevano vissuto l'abbandono. In questo caso sono tre esistenze che vivono una solitudine, uno di loro anche l'abbandono. Ma la cosa che veramente insomma mi ha segnato, diciamo, dopo questo film, è proprio la semplicità proprio che queste tre persone hanno nel continuare a sognare. Ecco, sono tre personaggi che nonostante tutto e tutti continuano a sognare, non hanno mai smesso di sognare, hanno dei progetti e sperano e sono convinti che prima o poi qualcosa accadrà che migliorerà le proprie esistenze. Ecco, questo è, devo dire che è un elemento a cui sono molto legato. Senti Dario, allora domenica ci sarà la proiezione all'Isola del Cinema con te presente, ci ricordi l'orario e poi anche i riferimenti internet per avere maggiori informazioni sulle guarda, allora saremo io e Cinzia Spano, che sulla Strada Film ha prodotto anche questo lavoro. Saremo domenica 22 presso la sala Cinelab, che è quella più piccolina dell'Isola del Cinema, l'Isola di Berlina. E poi sempre sul sito www.sullastradafilm.it ci sono delle curiosità, c'è la scheda del film, i personaggi, qualche teaser, qualche piccolo provino ai personaggi, insomma qualcosa qualche curiosità, ecco. Benissimo, allora Dario, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, ciao. Buon pomeriggio. Grazie anche a te, ciao. Dario Albertini, regista del documentario Incontri al mercato all'Isola del Cinema qui a Roma domenica 3 luglio. Nicola Moruzzi, regista del documentario Revelstock, un bacio nel vento. Nicola, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, un documentario intanto che ho scoperto perché ha ottenuto un riconoscimento in giro, giusto? Sì, abbiamo da poco avuto il premio allo scrittorio ai Docket Awards. E poi siamo stati, insomma, il documentario è stato riconosciuto perché è parte della cinquina di Davide Donatello e tutto è cominciato però a dicembre con un successo al Festival Visioni dal Mondo di Milano, che è stata la prima pedina del domino, fortunatamente. Ok, senti Nicola, per chi ci ascolta raccontiamo un po' questa storia, di cosa si parla nel documentario? Sì, in Revelstock io ho seguito la storia del mio bisnonno che cent'anni fa, tra il 13 e il 15, 1913-15, è partito in cerca di fortuna come tantissimi altri italiani insieme a lui. E in questi 30 mesi di viaggio, di avventura, lui ha scritto sempre delle lettere a sua moglie e queste lettere a un certo punto, dopo essere state chiuse in un cassetto per cent'anni, sono saltate fuori. E nel momento in cui le ho lette ho pensato che dovevo in qualche modo raccontare la sua storia. Il modo migliore è stato quello di partire con la mia compagna Irene, attuale moglie, siamo sposati da poco, e abbiamo cercato di raccontare la storia di questa coppia divisa da 9.000 km di distanza e questa avventura in cerca di fortuna, diciamo. Senti, si è trattato di una corrispondenza praticamente giornaliera per anni e anni. Sì, loro praticamente erano giovanissimi, si erano sposati da poco e lui però aveva contratto dei debiti durante il lavoro e non aveva la possibilità di scegliere, quindi è dovuto partire per forza verso l'ignoto, perché comunque per quanto lui avesse persone che conosceva nella British Columbia, che è la parte ovest del Canada, e lui non aveva assolutamente idea di quello che a cui andava incontro. Nel documentario noi raccontiamo sia l'amore tra Angelo e Anna, tra i miei bisnonni, ma raccontiamo anche poi la difficoltà lavorativa che si è trovato davanti, perché diciamo che si è incrociato, si è sincronizzato male con la storia, male con l'economia del luogo, perché nel momento in cui lui è arrivato si è trovato davanti alla più grande crisi economica che la British Columbia avesse mai conosciuto, e purtroppo in quegli anni i lavoratori erano veramente delle pedine da spostare nel territorio con i vagoni, quasi da deportare da un punto a un altro del territorio per andare una volta a lavorare su una miniera, una volta a lavorare sulla ferrovia. Quindi nelle sue lettere, che sono delle lettere d'amore bellissime, ma racconta anche degli scenari veramente che non possiamo immaginare al giorno d'oggi, se non pensando ad altre realtà che non sono sicuramente quella nostra italiana di oggi. Senti Nicola, con in mano un solo epistolario, come hai strutturato il documentario? Ma noi abbiamo nel documentario, il faro erano gli spostamenti nel territorio di Angelo, sì. Quindi noi abbiamo seguito gli indirizzi da cui lui scriveva, e i paesi che lui descriveva mentre si spostava verso il nord-est della British Columbia lungo la ferrovia, e quindi in qualche modo la struttura del documentario e quindi la struttura del nostro viaggio di scoperta ripercorre quell'avventura. Ovviamente cent'anni dopo noi abbiamo trovato qualcos'altro, e abbiamo trovato però comunque dei fili di testimonianza che ci ricollegano a quello che è successo cent'anni fa, fino veramente ad avere delle sorprese molto forti, sia sul piano personale che proprio sul piano storiografico, che non ci saremmo mai aspettati, perché sono riuscito a incontrare la famiglia che è discendente di un compagno di casa, coinquilino diciamo del mio bisnonno, in un quartiere di Vancouver, e abbiamo condiviso un po' di aspetti, un po' di ricordi, anche se poi cent'anni sono veramente tanti, quindi né loro né io avevamo conosciuto i rispettivi bisnonni. E poi gli archivi sono stati molto utili, oltre ovviamente a ripercorrere e a trovarmi negli stessi luoghi in cui poi lui è tragicamente morto, perché la storia che ho raccontato è anche la storia sì di un amore, ma di un amore finito in maniera tragica, perché Angelo purtroppo nel 15 ottobre del 1915 si trovava a lavorare nel tunnel più lungo del Nord America all'epoca, il Connaught Tunnel, in mezzo alle montagne del Canada, e un incidente gli ha tolto la vita. Quindi in qualche modo una tragedia che ha segnato la mia famiglia e di cui non si è più tanto parlato, e che in qualche modo io ho cercato con Irene, con questo viaggio, con questo documentario, di sanare, cioè che abbiamo cercato di chiudere un cerchio che si era spezzato, arrivando fino al luogo in cui Angelo è seppellito e addirittura fino al luogo in cui Angelo ha avuto questo tragico incidente, cioè all'interno del tunnel, alla ricerca proprio del segmento in cui, secondo l'inchiesta che fu fatta all'epoca, Angelo morì. Ed è questo un po' un omaggio anche nei confronti di tutti quanti gli italiani che sono partiti, e anche quelli ovviamente che non sono tornati, ma non solo italiani, anche è una storia che tutti quelli che hanno visto questo documentario si sono accorti che la lettura sul presente, il rimando sul presente è veramente immediato, forse insomma è una cosa che ci fa riflettere su da dove veniamo e perché dovremmo cambiare un po' il modo di porci rispetto a chi cerca di raggiungere le nostre coste oggi. Ecco, proprio a questo proposito, Nicola, ripercorrendo quelle tappe a 100 anni di distanza, almeno nei luoghi che hai visitato, com'è cambiata la realtà della migrazione e del lavoro? Si ripropongono situazioni che possono rimandare a quel periodo? Ma durante nel documentario noi siamo andati a visitare un centro di immigrazione attuale, e ovviamente è tutto molto diverso, il livello di assistenza è diverso, però come sottolinea Paul, uno dei nostri intervistati, i rischi sono sempre dietro l'angolo, perché il rischio dello sfruttamento è sempre dietro l'angolo, perché purtroppo chi si trova nei panni dell'immigrato italiano, africano, chiunque gli sia, si trova sempre in una situazione di debolezza, e la situazione di debolezza a volte può dare vita a insomma delle situazioni di sfruttamento. Fortunatamente il Canada è un paese veramente incredibile, abbiamo trovato un'accoglienza da parte di tutti quanti. Per non parlare dell'accoglienza nei confronti dell'idea di fare un documentario in Canada, il genere cinematografico del Canada è proprio il documentario, loro hanno diversi festival importantissimi, Hot Dogs, insomma tanti altri, quindi sì, la situazione è molto cambiata, però c'è sempre il passato, non è mai completato e ci aiuta a leggere il presente, in questi termini. Senti Nicola, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per informazioni su un calendario di proiezioni o tutte le informazioni sul documentario? Allora, noi abbiamo 3 proiezioni in vista, innanzitutto all'Euganea Film Festival a Padova, in zona Padova, 14 luglio, poi il Lago Film Festival a Revine Lago, sempre in Veneto, tra il 22 e il 30 luglio. Su Roma il 4 agosto saremo all'Isola del Cinema con una proiezione alle 22, è arrivato 4 agosto, e chi volesse rimanere essere aggiornato sulle proiezioni può trovarsi sia su Facebook Revelstock documentario, che su www.revelstock.it, scritto Revelstock con la K e con la E finale. Benissimo. Nicola, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille Federico. Ciao. Saluti a tutti. Ciao. Nicola Moruzzi, regista del documentario Revelstock, un bacio nel vento. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Eccoci con Laura Basta, co-regista del documentario Waiting Area, che sarà programmato il 1° luglio al No Border Fest. Intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Laura. Grazie, ciao a tutti. Allora, un documentario per il No Border Fest qui a Roma. Raccontaci intanto la storia di cui parla il documentario. Allora, il documentario sostanzialmente è un viaggio in Grecia attraverso vari centri d'accoglienza, esperienze autogestite, è girato a ridosso della chiusura delle frontiere, quindi la chiusura della frontiera tra Macedonia e Grecia e l'accordo UE-Turchia, quindi in un momento in cui rifugiati che venivano soprattutto da Siria, Iraq e Afghanistan, sono che prima facevano tutto il passaggio attraverso la Balkan Route per raggiungere poi il centro Europa e il nord Europa, a un certo punto sono rimasti bloccati a ridosso della frontiera e non solo, perché in tutta la Grecia nel periodo in cui noi siamo andati c'erano persone che si fermavano in campi differenti a seconda della data di arrivo in Grecia, quindi sostanzialmente è un po' un viaggio per capire meglio questa situazione sia da un punto di vista politico, perché ovviamente c'è una politica dell'Unione Europea che inizia dalla Grecia ma non finisce lì, perché insomma è un qualcosa che si replica anche in Italia attraverso il Migration Compact ed altre gli hotspot, insomma è tutta quanta un'altra serie di situazioni, e contemporaneamente volevamo un po' ascoltare le voci delle persone che effettivamente stanno vivendo quella situazione. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo chiamato il documentario Waiting Area, perché in quei 15 giorni, dopo 15 giorni, quello di cui, ciò di cui ti rendi conto è che effettivamente è la Grecia una grande sala d'attesa, persone che da 3 mesi attendono di proseguire un viaggio o di continuare il loro tragitto. Senti, quanti luoghi in Grecia avete visitato di questo tipo? Beh, quanti luoghi? Tanti. Siamo partiti da Atene e siamo risaliti su, siamo arrivati fino al confine con la Macedonia, al confine con l'Albania e poi siamo tornati indietro. I luoghi in cui siamo stati sono stati dai campi spontanei, che sono quei campi che sono nati appunto spontaneamente, quindi uno dei più famosi è Idomeni, proprio perché era un grandissimo villaggio di 11.000 persone accampate davanti alla frontiera, ma ce ne sono degli altri sparsi, ce n'erano degli altri sparsi per la Grecia, perché li hanno sgomberati quasi tutti. E nei campi militari, che sono i campi fatti dal governo, anzi campi governativi e campi militari, che sono i campi fatti dal governo spesso in aree prima adibite a campi militari, e quindi sono allestiti con grandi tende, spesso in mezzo al nulla, cioè una vallata verde con il primo villaggio a da 3 a 15 chilometri di distanza. E poi siamo stati ad esempio ad Atene il giorno che hanno occupato l'Hotel City Plaza, che quindi esperienze autogestite, un'altra forma di accoglienza, e effettivamente tra tutte e tre le esperienze, tra tutte e tre le tipologie di esperienze, c'è un qualcosa che cambia molto nelle persone che ci abitano, perché mentre nei campi militari effettivamente la tua vita è interamente regolata da chi gestisce il campo, quando vai a mangiare, cosa fai, a che ora puoi uscire, a che ora devi rientrare, quando fai la richiesta d'asilo, nei campi spontanei era un po' diverso, perché comunque per quanto fosse una situazione momentanea, comunque c'era un certo tipo di autogestione, anche delle realtà molto interessanti che erano nate. Ai domani ad esempio c'era un gruppo di rifugiati siriani che avevano messo su una TV, Refugees TV, proprio per documentare a loro volta quello che stava succedendo all'interno del campo. Sì. E le esperienze di autogestione in cui le persone scelgono quello che vogliono fare, ciò di cui hanno bisogno, perché si fanno assemblee e quindi si sceglie comunemente che cosa effettivamente si vuole fare. Senti, dopo il No Border Fest, che giri farà il vostro documentario? Allora, ancora non abbiamo un progetto ben preciso, perché questa è la seconda proiezione, l'abbiamo terminato veramente pochi giorni fa, però una pagina Facebook che è sulla quale pubblichiamo le varie proiezioni che ci saranno in futuro. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, ricordiamolo l'appuntamento al No Border Fest qui a Roma, dici il luogo e l'orario. Allora, il No Border Fest si terrà per 3 giorni, quindi dal 1° al 3 luglio. Il luglio è a Magliana, agli Officine Culturali in senso inverso, che si trovano in via Vagliano 7, del giorno in cui verrà proiettato il documentario. Sì. Però il No Border Fest proseguirà anche il 2 e il 3 luglio alla Città dell'Utopia, che è nella zona di San Paolo, con una serie di workshop, discussioni, invitati, musica e laboratori. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te. Ciao, ciao Laura. Ciao. Laura Basta, co-regista del documentario Waiting Area al No Border Fest qui a Roma per domani, 1° luglio. Patrizia Salvatori per parlarci di Alphaville d'estate al Pigneto da domani 1° luglio fino al 4 settembre. Patrizia, ben ritrovata. Ben ritrovati a tutti voi, grazie, buon pomeriggio a tutti, ciao Federico. Allora, una rassegna impegnativa, insomma più di 2 mesi di programmazione. Ma non ci spaventa, perché lo facciamo da tantissimi anni. Questa è un'edizione ormai, come dire, la 14ª edizione di questa, diciamo, kermesse cinematografica d'autore, che quest'anno vanta 2 novità eccezionali. Allora, la prima, che non si chiama più come si chiamava fino ad adesso Minarena Pigneto, ma ha un nuovo nome ed è Alphaville d'estate al Pigneto, per sottolineare che la nostra programmazione resta appunto una programmazione da cineclub, come tutto l'inverno, l'autunno, la primavera all'Alphaville, tanto per citare Kinky Duck, ma no, non è per questo, ma insomma no, in realtà è proprio per ricordare che in effetti noi ci stiamo semplicemente spostando di 150 metri dalla nostra sede, e come cineclub andiamo ad occupare appunto, e questa è la cosa carina, lo spazio notturno, serale notturno, che è normalmente è quello del centro anziani di Via De Magistris, il centro, sì, anziani più antico del Pigneto. Sì. Quindi facciamo anche una cosa interessante, perché utilizziamo spazi altrimenti chiusi per appunto le vacanze estive, e andiamo lì come tutti gli anni. Quindi la prima novità è che abbiamo questo Alphaville d'estate al Pigneto, che sostituisce la mini arena Pigneto, che è più calzante per il cineclub. La seconda novità è che ci piacciono molto i concorsi letterari, e quindi daremo vita ad un concorso letterario, e spero che tutti partecipino, che è un concorso che riguarda appunto il cinema e l'estate. Mm-hmm. Daremo indicazioni su questo concorso domani, quando appunto si aprirà l'arena, il primo giorno dell'arena, venerdì 1° luglio alle 20:45. Indicheremo il regolamento, le 25 righe le posso anticipare da subito, racconti di 25 appunto righe, e la possibilità appunto dopo il 4 settembre di essere premiati all'interno della nostra arena con un racconto dedicato all'estate, al cinema e perché no anche al cineclub. Senti Patrizia, volevo sapere se la programmazione è quotidiana e quanti film più o meno programmerete in questi 2 mesi. Programmiamo tantissimi film, e io grosso modo su per giù, essendo dunque già, ecco, nel 1° luglio, nel programma del 1° luglio avremo una 35-40 di film, e dunque al giro di boa di agosto sicuramente saranno raddoppiati. È una, noi organizziamo appunto questa kermesse come tutti gli anni, con diciamo le nostre rassegne a tema e le nostre rassegne monografiche. Io credo che questo anno sia un anno tutti i giorni, naturalmente tutti, tranne qualche lunedì che ci prendiamo di riposo. Okay. Però è un anno un po' particolare, perché diciamo abbiamo cercato di dare a questa arena un tocco sempre grandemente d'autore, ma un tocco insomma anche che rispetti avanti questa tradizione di, come dire, di convivialità, di freschezza, di serate d'estate e magari anche di qualche fetta d'anguria che offriremo ai nostri ospiti, sperando che poi, ai nostri spettatori, sperando che poi tra l'altro continuino come sempre a rimanere con noi a discutere di cinema, di belle storie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi programmiamo sicuramente dall'inizio, da domani, una cosa, ecco, un autore molto significativo della storia del cinema che è Leo Carax, che ci piace molto, ci è sempre piaciuto molto anche all'Alphaville. Infatti iniziamo da venerdì a domenica con questa breve rassegna di 4 film. Ricordo che domani c'è Gli Amanti del Ponneff e poi soprattutto il sabato c'è Holy Motors, che è uno dei film più belli, più visionari, più eccezionali, non so se l'hai visto Federico, sì, della storia del cinema, sì, veramente uno dei film della storia del cinema contemporaneo. Quindi iniziamo dal contemporaneo, però avremo anche un ripasso del passato di Pedro Almodovar, con una serie di rassegne che vanno dal 5 al 10 luglio e che sono una serie di film, scusate, dal 5 al 10 luglio, che hanno a che fare con l'antica, diciamo, voglia di Pedro di raccontare le storie, che ormai risale a parecchio tempo fa, stiamo parlando degli anni 80. Abbiamo quindi film proprio del passatissimo: Labirinto di passioni, L'indiscreto fascino del peccato, Le donne sull'orlo di una crisi di nervi, che ho fatto per meritare questo. E quindi abbiamo questa vena di sacratoria post-franchista che però poi si stempera, anche Matador veramente abbiamo, e faremo, si stempera poi, ma non tantissimo, nella produzione recente abbiamo messo Gli Amanti Passeggeri del 2013 e Volver del 2006, tanto per dare un'idea di che grande regista sia Pedro Almodóvar, che stava nelle sale con Julieta e quindi che ci piace appunto un po' ricordare nella sua tradizione del passato. Senti Patrizia, una curiosità, ci sono previsti anche documentari e incontri con gli autori? Allora, non sono previsti documentari, non sono previsti incontri con gli autori, quest'anno però è prevista un'altra novità, sì, e cioè un contenitore, un box che si chiama distributore automatico. L'abbiamo chiamato così perché da questo momento in poi il Cineclub Alphaville proporrà, anche poi in dopo quando torneremo, ma intanto adesso, un contenitore al cui interno saranno programmati film non distribuiti in Italia in versione originale con i sottotitoli. Ah. Per il mese di luglio, sì, questa è una grande cosa secondo me, sì, stiamo facendo delle ricerche, adesso vediamo cosa possiamo proporre per agosto, ma per il mese di luglio intanto proponiamo una cosa eccezionale, cioè 11 minuti di Scoli Moschi, che è questo bellissimo film che non è stato distribuito in Italia e quindi sarà questo il 12 luglio in versione originale con i sottotitoli in italiano, che racconta 11 minuti della vita di alcuni personaggi all'interno del film. Ed è un Scoli Moschi è questo grande regista di origine polacca, famoso anche per film che abbiamo peraltro dato recentemente, La ragazza nel bagno pubblico, tanto per dirne uno, ed è un regista capace veramente di coniugare una sorta di nouvel vaguismo alla francese all'interno della cinematografia dell'est, quindi veramente da non perdere. È un film del 2015, io credo che sia un inizio di distributore automatico di questo nostro contenuto, che niente ha fatto male. E poi il distributore automatico continuerà, si riproporrà il 18 luglio con il film di Xavier Dolan, Tom à la ferme, anche questo del 2013 in versione originale con i sottotitoli, ma distribuito in Italia. La stessa cosa avverrà ad agosto, ma non ve lo posso anticipare perché ancora non lo so quale di questi film metteremo nel distributore automatico, però è bella questa iniziativa, credo, perché ci aiuterà a vedere film che altrimenti non potremmo vedere. Ci sono anche da sé. Dimmi. No, niente. I riferimenti web per saperne di più su tutte le giornate ce li sì, dai? Dunque, dico soltanto brevemente, sì, che ci sarà per gli amanti del tango che me lo chiedevano da anni alla Mini Arena e adesso all'Alphaville d'estate al Pigneto. Ci sarà Allora Tango, una rassegna sul tango, ci sarà un gruppo di commedie francesi spassosissime di grandi autori come René, Salvadori, Blier, Brochac, Arendt, Didi, che sono veramente famosissimi e che saranno tutti dal 19 luglio al 24. Ci sarà una serata omaggio dedicata alla Vespa e ci sarà per finire il mese di luglio Rapper Tivrit, altra richiesta dei nostri associati che volevano vedere film dedicati a questo grande attore inglese. Tutto questo può essere poi visto precisamente, non così velocemente come sto facendo in questo momento, su www.cineclubalfavil.it www.ridosso.it e poi se si va lì ci sono i riferimenti telefonici, la locandina e anche i riferimenti di sinossi che riguardano appunto il singolo film di ogni serata. Benissimo, Patrizia, un abbraccio e ci si vedrà sicuramente alla vostra arena. No, Federico, io penso che tu debba venire assolutamente, certo. non ho dubbi che tu debba esserci. Ti ringrazio a tutti voi, auguro un buon pomeriggio. Un abbraccio, a presto. Ciao. Patrizia Salvatori, per quanto riguarda Alphaville d'estate al Pigneto, dal 1° luglio, domani fino al 4 settembre. Parliamo ora della 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, dal 2 al 9 luglio. Ne parliamo con Pedro Armocida. Ci sei, Pedro? Sì, ciao, buon pomeriggio. Che ne è direttore, tra l'altro. Allora, Pedro, c'è appena stata la conferenza stampa, ci racconti un po'? Assolutamente sì. Allora, diciamo, il programma è vasto e molto... molto pieno, cercherò di essere abbastanza esaustivo, partendo dal punto fondamentale del concorso di quest'anno, che ha 8 film provenienti da tutto il mondo, film naturalmente per noi molto belli, alcuni in anteprima mondiale. C'è anche un film italiano un po' particolare, nel senso che parlo di Per un figlio, di un regista di immigrato di prima generazione da Sri Lanka, prodotto da Gianluca Arcopinto. Lui si chiama Suranga Deshapriya Kadugampala ed è appunto un film, dico, particolare perché racconta di un adolescente srilankese, della madre, in una città del nord, con il conflitto che c'è tra appunto gli adolescenti sui propri genitori, ma qui anche in chiave culturale, perché il figlio vuole essere italiano e la madre naturalmente invece è molto più legata alla cultura di origine, quindi questo conflitto poi deflagra nel film. E 8 titoli in concorso, come l'anno scorso, giudicati da una giuria di soli studenti di varie università di storia del cinema, presieduta poi da Roberto Andò, che mi piace sottolinearlo perché Roberto Andò è anche presente in un'altra delle sezioni del festival, che è questa che ho curato insieme a Laura Buffoni. Quest'anno sul cinema italiano facciamo un discorso un po' trasversale e particolare, forse proprio non in linea con la tradizione di Pesaro, più legata ai singoli autori, ma appunto uno sguardo su come è cambiata la narrazione nel cinema italiano. L'abbiamo chiamata romanzo popolare. C'è un volume che è appena uscito per Martillo, la collana quella verde classica del nuovo cinema, sempre curato da me con Laura Buffoni, in cui ci sono apporti di saggisti di varie estrazioni, in cui anche attraverso i generi parliamo di come è cambiata la narrazione del cinema italiano. A Pesaro invece giochiamo un po' con i film, con coppie di film, per esempio faccio un esempio così si capisce subito. Proiettiamo Terza Liceo di Luciano Emmer a confronto scontro con Come te nessuno mai di Muccino, piuttosto che I compagni di Mario Monicelli, Tutta la vita davanti di Paolo Verdì, quindi due commedie all'italiana sul tema del lavoro, però in questo caso. Poi ci sarà il film politico Todo modo di Elio Petri, appunto messo a confronto con Viva la libertà di Andò, che sarà presente al festival appunto anche come presidente di giuria. E poi continuiamo con dei triptici un po' peculiari, per esempio sul noir. Raccontiamo anche come è cambiato il noir rispetto allo spazio urbano, quindi partiamo da Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, passando per Il passato una terra straniera di Vicari e finendo con Suburra di Sollima, oppure il romanzo storico film costume da Senso di Visconti al Resto di Niente di Attenuta di Lillo, che proprio quest'anno compie 10 anni, a c'è un attimo di... non ti preoccupare, sono bloccato un attimo, ecco. Senti, intanto diciamo sì. Anche i luoghi del festival. Sì, i luoghi del festival sono su quali poi costruiamo il festival. Dall'anno scorso abbiamo dato un'ampia risonanza alla parte convegnistica dei dibattiti delle tavole rotonde in questo centro arti visive e pescheria, un luogo molto bello che ha adibito sia a mostra di film, perché con la Gamma, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna Contemporanea di Torino, facciamo una retrospettiva sulla videoarte. E poi la mattina ci sono ogni giorno appunto incontri sul nuovo cinema. L'anno scorso ne abbiamo avuti due sul futuro del nuovo cinema, anche legate ai festival e naturalmente legati molto al nostro festival, che ha il suo nome Il Nuovo Cinema. E poi sui rimontaggi, questo concorso sui video essay, appunto la critica in rete, una parte del festival curata da Adriano Aprà tratta proprio questo argomento in maniera molto molto precisa. Si chiama Crito Film, cinema che pensa il cinema, cioè una ipotetica forma di, poi anche fattuale, di critica cinematografica attraverso le immagini. E c'è una selezione di decine di film che ha selezionato, con anche questo in accordo con il resto della mostra, che ha un aspetto scientifico sempre molto forte nella sua traduzione, appunto con due libri, quello di romanzo popolare che ho detto, e avrà cura questo libro che non viene stampato ma è un ebook, non per questioni economiche, ma proprio perché è pensato con saggi di saggisti da tutto il mondo, anche americani importantissimi come Jonathan Rosenbaum, ma è pensato appunto per link anche, quindi appena un autore cita un film c'è il link in cui uno sulle reader può cliccare e andare a vedere di cui si parla, piuttosto la rivista da cui è tratto, l'argomento, ecco, quindi link interni e esterni per una nuova forma anche in questo caso di saggistica cinematografica, secondo me abbastanza all'avanguardia anche per il tema proprio del scritto film che stiamo pensando. Se qualcun altro l'ha mai trattato, sembra proprio di no. Benissimo, senti, tutti i riferimenti sulla programmazione sono sul sito internet? Sì, sono sul sito internet, che è molto completo. Ridevo l'altro giorno perché anche un sito importante come My Movies ci aveva dedicato uno speciale ancora più completo del nostro sito, perché ha catalogato i film anche per generi, quindi alla fine, che ne so, è spuntato genere hard, che mi ha sorpreso, perché tra gli eventi speciali c'è il cortometraggio di Monica Stambrini, Queen Kong, con Luca Leonello e Valentina Appi, che fa parte del progetto delle ragazze del porno. Non è un porno, diciamo, in senso stretto, naturalmente è un film d'autore, d'autrice in questo caso, però effettivamente è un film con immagini esplicite, quindi mi ha fatto ridere leggere questa questa catalogazione come film hard. Ho ricordato qual è il terzo film del romanzo popolare. Perfetto, allora il romanzo storico che noi credevamo di Marcone, ecco, questo per chiudere. Ok, benissimo. Il trittico. Senti Pedro, non so se riuscirò a farcela e ad essere lì, comunque un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie Federico, noi ti aspettiamo sempre, ma questo aspetto dobbiamo approfondirlo. Sarai a parlare di nuovo cinema, dai. Ok, un abbraccio. È una promessa mia e tua. Okay. Ok, a presto. Ciao Pedro. Grazie, ciao a tutti. Pedro Armocida per la 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, da lui diretta dal 2 al 9 luglio. Alessandro Giacobbe di Academy 2 per parlare di una interessante rassegna Nuovo Cinema Teheran, un titolo in uscita oggi giovedì 30 giugno. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, si tratta di più titoli, che io sappia almeno 4, giusto? Giustissimo. Abbiamo già esordito la scorsa settimana col primo titolo di questi 4, si intitola Un mercoledì di maggio, era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno con ottimi risultati e un ottimo gradimento della critica, e quindi abbiamo diciamo con ho colto l'occasione per raccogliere questi quattro titoli della cinematografia iraniana che sono stati tutti presentati a dei festival internazionali molto importanti. Il film che esce oggi in sala ha una peculiarità, è una regista iraniana che attualmente vive però negli Stati Uniti. Il film si intitola A Girl Walks Home Alone at Night, o traducendo una ragazza torna a casa di sola, da sola la notte. È un quello che è stato definito il primo spaghetti horror western iraniano e quindi una trama molto curiosa e interessante in un bianco e nero limpido e affascinante, una storia misteriosa che credo piacerà soprattutto al pubblico dei più giovani. Tra l'altro faccio una parentesi, credo che sia il film dal quale abbiamo estratto un fotogramma che costituisce la copertina della trasmissione di questa settimana. C'è una donna la fotografia è in bianco e nero e c'è una donna con il velo con velo nero. Sì, sì. Sì, allora credo che sia proprio tratto da questo film. Probabilmente questa. E diciamo che appunto sono questo film che esce in sala oggi era stato presentato al Sundance Festival, quindi è un festival estremamente importante per la cinematografia indipendente, e un mercoledì di maggio appunto era alla mostra del cinema di Venezia lo scorso anno. Naid, che è un altro film di questa rassegna, invece era stato presentato a Cannes al Certain Regard nel 2015, e il più recente in ordine cronologico è A Dragon Arrives, arriva il drago, presentato a Berlino l'ultimo festival a febbraio di quest'anno. Quindi la proposta che abbiamo voluto offrire al pubblico in questo periodo durante il quale magari il cinema di qualità è un po' latitante è una proposta un po' originale col denominatore comune appunto di questa cinematografia iraniana, che troviamo estremamente interessante e molto varia nei suoi generi e nelle sue tematiche. Lo spunto immagino venga dal fatto che sempre più opere dall'Iran stiano arrivando ai festival internazionali. Beh, c'è sempre stata un'attenzione verso questa cinematografia da parte dei principali festival internazionali, e non dimentichiamoci per esempio che il film Una separazione, oltre ad aver vinto un Orso d'Oro a Berlino, ha vinto anche un Oscar per il miglior film straniero. In combinazione, la protagonista di questo film Una separazione è la stessa protagonista di Naid, che è uno dei film che noi andiamo a presentare, ma indubbiamente guardando questi film ci si rende conto come appunto ci sia questa vitalità nella cinematografia di Teheran. Infatti abbiamo chiamato la rassegna Nuovo Cinema Teheran proprio per sottolineare l'origine comune dei titoli, che però hanno un paio di questi una tematica abbastanza tradizionale, quindi focalizzata sulle problematiche familiari e sociali di questo paese nel momento contemporaneo, ma gli altri due invece sono assolutamente film di fantasia. Parlavamo dello spaghetti horror western, dove la protagonista è questa vampiressa in Shador, e Arriva al drago invece è una storia che si ambienta negli anni 70, una spy story con un pizzico di mistero anche lì e di magia, quindi proprio titoli che contentano un po' anche vari gusti, perché non sono monotematici assolutamente. Benissimo, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più anche rispetto alle sale e alle uscite? Ma guarda, la rassegna noi l'abbiamo studiata perché possa essere da questi giorni in avanti una rassegna itinerante, quindi al di là delle date un po' formali di uscita, dicevo oggi esce ufficialmente Girl Walks Home Alone at Night, così come la settimana scorsa era uscito mercoledì di maggio, ma in realtà il pacchetto è considerato un pacchetto unico, una rassegna unica che ci auspichiamo gli esercenti italiani ospitino durante dell'estate, anche nell'autunno prossimo. Abbiamo anche curato un catalogo di questi film che viene offerto al pubblico, proprio per aiutarlo a meglio entrare in sintonia con questa cinematografia. A Torino, per esempio, in particolare il film che esce oggi è al Nazionale, all'UCI di Moncalieri. Poi abbiamo una sala a Genova, a Milano, a Roma, quindi è abbastanza presente nelle principali città italiane, sperando che poi, come dicevo, questa rassegna possa essere un po' itinerante anche nelle località minori, in provincia e magari nelle località turistiche durante l'estate. Alessandro, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao. Ciao. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sul nuovo cinema Teheran, il titolo in programmazione a partire da oggi è Girl Walks Home Alone at Night. Eccoci in collegamento con Matteo Levaggi, danzatore e coreografo, che è ideatore dello spettacolo Sex con le 3X finali, del quale Davide Ferrario ha realizzato un film. E a questo punto, visto che Davide Ferrario è all'estero e non è raggiungibile, ne parliamo proprio con lui. Matteo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ma grazie, buongiorno a tutti. Raccontaci un po' di questa operazione partendo proprio dallo spettacolo. Cos'è Sex? Ma il Sex è nato nel 2013 con la volontà appunto di creare un balletto di rottura che fosse un grido anche per un certo tipo di libertà sessuale in questo caso, ma non solo, anche un certo tipo di libertà di vita comune, contemporanea. Ecco, quindi ecco la musica di David Bowie, dei Uncut, musica veramente strong e appunto una danza fatta di un'energia estrema, ecco, che mette i ballerini in grande difficoltà tecnica. Senti, come è nato poi l'incontro con il cinema, con Davide? Ma Davide venne alla prima del balletto e poi molto semplicemente dietro le quinte mi ha detto: guarda, voglio fare un film di questo tuo lavoro, voglio farne un film. E da lì poi siamo andati alle riprese un anno dopo, se non sbaglio, ed è nato appunto questo nuovo modo di vedere la danza, a mio parere, perché comunque ancora l'altro giorno, visto l'anteprima, ha un impatto veramente forte sul grande schermo, anche perché Davide ha fatto un grande lavoro molto intelligente, cioè di non documentare il mio balletto ma di ricoreografarlo in qualche modo con le telecamere. Quindi è un punto di vista per il tipo di lavoro anche molto interessante, perché si avvicina moltissimo a quello che è il mondo del cinema pornografico in qualche modo. Ecco, rispetto allora raccontaci anche un po', dicevi che ha rifilmato, e quali sono le differenze, esatto, sostanziali tra lo spettacolo e la pellicola digitale, perché ormai diciamo che fondamentalmente nello spettacolo, le volte che è stato portato in scena, come anche a Milano, al Teatro Elfo, lo spettacolo visto dalla platea prende per un'energia, diciamo, generale, per la musica, per questo movimento continuo dei danzatori. Nel film, oltre al balletto, si inserisce una micro storia, un piccolo cortometraggio, ma le telecamere entrano quasi nel dettaglio del corpo di questi danzatori. Sì. Quindi ne rivela proprio delle parti che chiaramente dalla platea non puoi osservare, ecco. Senti Matteo, lo spettacolo che percorso farà? Lo spettacolo in questo momento non è in scena, perché abbiamo voluto appunto concentrarci sulla sulla presentazione del film e poi in base agli esiti, che credo che siano buoni, anche perché già c'è molta attenzione per questo lavoro, e magari ci verrà voglia di rimetterlo in scena e di creare una tournée, ecco. Mm-hmm. quindi vediamo, anche perché comunque è un lavoro che è bello vedere nei due aspetti alla fine dei conti. Cosa ti ha conquistato della versione filmata? Ma come dicevo prima, queste telecamere che entrano in palcoscenico e che quasi danzano coi danzatori, ecco. Poi la cosa altra che mi piace è che è un film che di danza, sì, ma che conquista un target molto molto ampio, perché vuoi per la musica, vuoi per il tema, vuoi per questa carnalità che esce prorompente dallo schermo, proprio ti senti schiacciato sulla poltrona. Questo è molto forte per me. Il corpo e il sesso nell'immaginario, anche grazie allo spettacolo e al film, che direzione stanno prendendo più in generale, secondo te? Ah, diciamo che il sesso è uno strumento dal quale partire per parlare del nostro essere uomini e donne nella vita, però qua si parla appunto di libertà, di argomenti che oggi sono estremamente attuali e che però non sono legati veramente al sesso, anche perché nel film, sì, è vero, c'è una situazione molto molto forte, perché i danzatori sono praticamente nudi e si vedono delle scene forti così, però alla fine dei fatti, quando si va al finale, che non posso svelare, se ne esce con un'idea cioè ci si fa una domanda su quello che è l'essere umano oggi in questa società, ecco, che ancora ha molte barriere da abbattere. Senti, per saperne di più sullo spettacolo in rete, dove si può cercare? Si può cercare sul sito della Nexo Digital, che, a parte il fatto che mettendo su Google sex con le 3x, sì, di Davide Ferrario e Matteo Levaggi, esce tutto, però nexodigital.it/sex, dove ci sono tutte le sale di Italia dove viene programmato il film, e che tra l'altro conquistò alla sua prima al Torino Film Festival anche l'attenzione di Madonna, che era proprio in quei giorni a Torino per il suo ultimo concerto. Quindi vediamo cosa accadrà nel futuro per questa pellicola. Senti, un'uscita di 2 giorni mirata, come è nella loro tradizione, è prevista anche cioè sono previste proiezioni evento alla vostra presenza? Per esempio il 5 di luglio sarò a Torino al Cinema Nazionale, dopo la proiezione delle 21:30 incontrerò il pubblico, quindi sarà un'occasione anche di scambio di opinioni. Sì. E poi appunto stiamo organizzando ancora delle cose, diciamo che vogliamo capire come va questa prima ondata di date di cinema che ricevono appunto film, e poi ci sono molti altri canali interessanti a cui proporre, ecco, la pellicola, quindi vediamo, succederà qualcosa, penso. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie a voi, buona ciao, giornata. Matteo, ciao. Matteo Levaggi, creatore dello spettacolo Sex, filmato poi dal regista Davide Ferrario, per un film che ha lo stesso titolo e sarà in uscita in sala per Nexo Digital il 4 e il 5 luglio prossimi. Era l'ultimo ospite per Visionari di questa settimana. Torniamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. La scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.